significa è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Mi accorgo che tutto intorno a me, a te, musica è. Danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Música é.